Ciao a tutti, sono Barbara e questo è il decimo episodio di Yogurt Acid Care per un secondo lockdown. Yogurt Acid Care è il mio progetto che include una visione estensiva, fluida e non stereotipata dello yoga, visto come cura radicale dell'individuo in un contesto non bucolico, ma urbanizzato e frenetico, che è la società in cui viviamo. Perché ho deciso di fare questi episodi? Siamo in una seconda zona rossa nel giro di 8 mesi. Siamo a Milano, trasmettiamo da Milano, sperando di raggiungere posti più decenti di questo in questo momento, dove ci è permesso fare una vita più o meno da settantenni. Siamo un po' abbandonate a noi stesse, a livello economico e a livello psicologico, per non parlare del livello emotivo. L'unica forma di attenzione pare che sia durante la produzione. Non possiamo fermare la produzione, ma non possiamo fare nient'altro. Oggi è una giornata un po' complessa per me. Avevo in mente di fare un episodio su Ganesha come follow up a ieri, all'episodio su Lakshmi, sull'energia Shakti, ma non mi sembra il caso, non mi sembra il caso, per cui ho scelto un sutra che viene dal Sutra per il Cuore, Heart Sutras. I sutra sono delle composizioni antichissime in versi, e il sutra che ho scelto ha origine buddista cinese e tibetana, non è hindu. Ho scelto questo sutra per il suo significato, nonostante mi rendo conto che sia difficile da pronunciare. Ma prima di andare sul sodo, per chi non ha mai sentito Yogurt Acid Care, dubito che ci sia qualche anima che non mi ha mai ascoltata e si trovi qui così, però ok, siamo alla decima puntata su 14, un percorso di 14 pillole di mantra e meditazione, in cui sono citati anche i 7 interruttori per la felicità. I mantra sono delle composizioni di sillabe o serie di parole che hanno un diretto contatto con l'anima e si dice che abbiano la funzione del cibo per l'anima. Il mantra è la ripetizione di un suono che può inglobare solo una frequenza, ma molto spesso anche un significato più spirituale e profondo. Far riverberare i mantra a voce alta ha un effetto più alto sulla produzione di queste vibrazioni e frequenze, perché facciamo vibrare i meridiani sulla nostra lingua e stimoliamo tutti i nervi e le terminazioni all'interno della gola, della bocca, del naso. Per cui se siete in grado di verbalizzarli a voce alta, ok, ma mi rendo conto che è molto complesso perché richiede una padronanza della respirazione molto alta. Non è necessario per cui ripeterli a voce alta, va benissimo la vocalizzazione mentale e siete libere di vocalizzare in maniera monotona oppure di dare una melodia al mantra. Thank you. La giornata di oggi mi chiede di essere sintetica con le mie parole. Sono tendenzialmente sintetica di mio. A sto giro veramente sarò molto sintetica perché sento una necessità profondissima di silenzio, perché mi sono svegliata con la testa un po' piena di emozioni e di pensieri e non tutti positivi, per cui devo un po' fare detox. E lo faremo assieme. Il mantra di oggi, che viene appunto da Heart Sutra Mantras del buddismo, si pronuncia Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha. Lo so, è difficile. Lo ripeterò 500 volte. Gate Gate Paragate, Parasamgate Bodhi Svaha. Se volete leggerlo, scrivete Gate, Gate, Paragate e ve lo trova sicuramente negli Heart Sutra, Sutra del cuore. Gate, Gate, Paragate, Parasamgate Bodhi Svaha. Gate, Gate, Paragate. Parasamgate Bodhi Svaha si può dividere in due espiri. Gate, gate, paragate, parasamgate Bodhi Svaha. Il significato è libero, libero da un'altra parte. Tutti sono andati dall'altra parte dove c'è l'illuminazione. Libero, libero, che significa libero da ogni sofferenza. La sofferenza se ne va e lascia spazio alla liberazione, al perdono e all'attenzione mentale. Il dualismo si trasforma in non-duality. Paragate significa che sono andato dall'altra parte del fiume, ho attraversato uno spazio e sono arrivato dall'altro lato della banchina. Parasamgate significa che tutti siamo andati dall'altro lato. Bodhi è la luce interna. Quella illuminazione, quel risveglio interiore è Svaha, è la pure joy. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, Svaha. Gate, gate, paragate. Parasamgate Bodhi Svaha. Oggi è una giornata in cui sento particolarmente questa fatica. Siamo al decimo giorno di quarantena, che non sembra realmente una quarantena, che sembra che ognuna di noi abbia una visione, una percezione un po' diversa. Sembra anche che questo stato, questo sistema in cui siamo, consideri solo una certa tipologia di stile di vita come tutela. Se non viviamo in una situazione tradizionale, in una famiglia tradizionale, con relazioni tradizionali, siamo abbandonate a noi stesse. È una vita dura per tutte le persone che hanno scelto di non conformarsi in maniera totale. Per la nostra generazione è una vita dura per tutti i non boomers, che eravamo già precari e in questo modo siamo proprio abbandonate a noi stesse, sole come delle piccole cagnette. Sole o l'alternativa è illegali. La scelta è, per quanto mi riguarda, forse si divide in due. Rispettare alla perfezione il DPCM e le nuove misure e probabilmente collassare psicologicamente in maniera molto lenta e graduale, perché comunque viviamo in una società frenetica dove viene stimolato costantemente il nostro sistema nervoso simpatico, che è fight or flight, quello delle adrenaline, mentre non abbiamo più la possibilità di risvegliare il sistema nervoso parasimpatico per bilanciare tutte le adrenaline e gli ormoni stress che riceviamo, che non siamo in grado di bilanciare come effetto e che sono particolarmente tossici per il sistema immunitario, ma nessuno se ne frega in questo momento, no. Quindi torniamo al Heart Sutra. Tutta la sofferenza. Io invoco questo sutra perché oggi questa sofferenza se ne vada e mi lasci un po' più libera, con la mente più lucida e con la capacità di dimenticare e perdonare tutta questa situazione. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha. Gate, gate, parasamgate, bodhi svaha. L'ultima volta che la ripeto. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha. Ci prepariamo alla pratica. Facciamo qualche movimento prima di trovare una posizione confortevole in cui immobilizzeremo il corpo e lo lasceremo andare. Possiamo stare sedute o sdraiate con la pancia rivolta verso l'alto. Iniziamo a chiudere gli occhi e rivolgere tutte le nostre attenzioni all'interno. Inspiriamo ed espiriamo solo ed esclusivamente con il naso e osserviamo come inspirando l'addome si solleva ed espirando si sgonfia leggermente. Manteniamo la nostra attenzione all'addome e attiviamo i sensi. Percepiamo il nostro corpo e ascoltiamo gli appoggi di questo alla superficie che ci sostiene. Non giudichiamo né interagiamo con le sensazioni. Procediamo per un leggerissimo e velocissimo percorso Yoga Nidra di sensorializzazione e rilassamento profondo del corpo. Visualizziamo e ascoltiamo tutto il nostro corpo. Poi lasciamo andare la visualizzazione e portiamo tutti i sensi all'interno dei piedi. Inspirando sentiamo i piedi ed espirando li rilassiamo completamente. Procediamo sentendo il retro delle gambe sino ai glutei. Espirando le lascio andare, percorro il fronte, sento e rilasso il fronte delle mie gambe. Rivolgo i sensi al pube. Espirando distendo gli organi genitali, poi sento e rilasso gli organi interni all'addome, tutti uno a uno. Lascio andare il diaframma, sento e distendo le tensioni dal torace, polmoni, sterno, clavicole, spalle si distendono. Sento la schiena, gli appoggi alla superficie. Espirando distendo ogni singola vertebra dalle sacrali sino alle cervicali. Lascio andare anche le scapole e i trapezi. Libero le spalle e percorro il retro delle braccia. Espirando lo rilasso e rilasso anche il dorso delle mani, le dita, i palmi, i polsi. Sento le mani e le lascio andare e percorro il fronte delle braccia. Libero dalle tensioni entrambe le braccia, rivolgo la mia attenzione adesso al collo e al capo. Rilasso la gola e sento i capelli uno a uno. Espirandoli rilasso uno a uno. Rivolgo i sensi alla superficie del viso. Lascio andare le tensioni completamente. Libero la muscolatura facciale. Poi la bocca. Rilasso la lingua. Espirando dischiudo i denti e le labbra e lascio che il mio viso sia sorridente e raggiante. Percepisco l'aria attraverso le narici e cerco di rilassare tutte le vie aeree interne ed esterne, poi rilasso gli occhi, le palpebre, le sopracciglia e lascio andare i movimenti oculari. Infine rivolgo tutta la mia attenzione e i sensi al centro della fronte, all'incavo tra le due sopracciglia, dove abbiamo il terzo occhio. L'amigdala nell'occidente. Con qualche respiro più profondo eliminiamo tutte le tensioni accumulate sulla fronte, che è anche la zona dove avvengono tutte le attività del pensiero. Prepariamo la fronte, ripuliamola per le attività di questa giornata. Osservo il mio corpo a suo agio più di prima, rilassato, pesante e connesso. Osservo il mio respiro, più regolare e silenzioso. Osservo la mia mente senza giudicare se passa ancora qualche pensiero. Osservo se i pensieri si sono dilatati. Cerco di mantenere questa connessione durante la pratica del mantra. Gate, gate, paragate, parasam, gate, bodhi. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. Invoco questa liberazione dalla sofferenza. Gate, gate, paragate. Parasamgate Bodhi Svaha. Gate, gate, paragate. Parasamgate Bodhi Svaha. Continuate, ognuno mentalmente o a voce alta, per conto suo, manterrò io il tempo e vi inviterò ad abbandonare il mantra con un suono di una campanella. Non forziamo il mantra, non forziamo il respiro. Se c'è qualcosa che non va con la pronuncia del mantra, facciamo qualche respiro più profondo e riproviamo. O lasciamolo andare e manteniamo l'attenzione all'addome. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisvaha. Gate, gate. Paragate, parasamgate, bodhi svaha. Lasciamo lentamente andare il mantra facendo qualche respiro più profondo. Se vogliamo risvegliarci dalla meditazione in maniera completa, iniziamo a muovere lentamente le dita delle mani e dei piedi per risvegliare il corpo. Anche la puntata di oggi finisce qui. Grazie che mi ascoltate come al solito. Questo era un Heart Sutra. I sutra sono delle letture complicatissime ma fenomenalmente illuminanti. E non è legato all'idea occidentale di Kama Sutra, come abbiamo noi, per esempio, i sutra sono una tipologia diversa. Siamo al momento in cui riprendiamo i sette switch prima di salutarci per la felicità. Il terzo switch per la felicità, che una settimana fa abbiamo accennato, era Let go of things do not serve you. Lasciamo andare tutto ciò che non ci è utile. Lasciamo andare tutto ciò che non ci è utile, nel senso non apatico, ma ciò che ci attraversa non è necessariamente detto che ce lo dobbiamo portare anche come un fardello addosso. Per cui qualsiasi cosa oggi ci tormenti e ci rendiamo conto che non è utile, riproviamo a concentrarci su questo punto qui. E mi piacerebbe anche che rifletteste se siete riuscite in qualche modo a lasciare andare le cose inutili della settimana scorsa o se sono ancora lì che vagano nella nostra anima. Grazie ancora, Namaste. Io vi lascio qui. E ci sentiamo domani per l'11° episodio.